sabato del villaggio. E siamo agli sgoccioli del sabato del villaggio, perché tra qualche istante sarà il momento di RadioTube. Ancora un po' di pazienza, ancora qualche istante, lascio un po' di suspense. No, perché vorrei commentare qualcosa che abbiamo detto prima con Piera De Tassis, direttore di CHAC, perché lei ha lasciato Cannes questa mattina per andare al Salone del Libro di Torino per un'iniziativa legata al leggendario Morandini, inteso come critico, inteso anche come libro. Però diceva: io porto sempre bene ai film che non riesco a vedere in proiezione a Cannes, ogni volta che mi distraggo poi questi film hanno successo. Allora io non dico niente, perché per scaramanzia non bisogna dire niente, però arrivano proprio in questi istanti delle notizie molto molto belle da Cannes, perché Nanni Moretti è stato molto applaudito nella sua proiezione, nella proiezione del suo film in concorso Mia Madre. Applausi calorosi per il secondo tra gli italiani in gara. L'altro giorno è stato il giorno di Matteo Garrone, intanto stiamo aspettando Sorrentino, il 20 sarà il giorno di Paolo Sorrentino. Ebbene, moltissimi applausi, anche tante risate per Mia Madre. Dopotutto Moretti è di casa a Cannes, premio per la regia per Caro Diario, poi aveva vinto anche con La stanza del figlio, insomma era molto atteso, molto apprezzato. Pare che la stampa internazionale stia preparando, mi dicono, recensioni positive, le mie spie a Cannes mi dicono, ci siano anche dei bei titoloni, quindi io non dico niente, però se la legge di De Tassis, come abbiamo sentito, è buona, potrebbe essere anche una buona giornata per il cinema italiano a Cannes. Tra l'altro lo sappiamo, questo film ha tra gli autori John Turturro, che ha ricordato, lui e Nanni Moretti si conoscono da molti anni, nel 1998 erano insieme in concorso proprio a Cannes, uno con Aprile e l'altro con Illuminata. Bene, mi piacciono molto queste notizie che stanno arrivando da Cannes, però adesso è proprio il momento. Io dico sempre che mi cambio d'abito, non è vero, rimango vestita nello stesso modo, però cambiamo le sigle, cambiamo atmosfera, perché il sabato del villaggio nella terza ora, cioè quella dalle 17 alle 18, diventa RadioTube, tutte le notizie della rete e dalla rete insieme a Daniele Bellasio. Eccoci qua. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, la mia ora preferita del sabato, sì, del villaggio. Io arrivo qua alle 3. No, vabbè, arrivo la mattina in realtà, però mi auguro, beh, insomma, vai in devo diretta senza preparare nulla. Sì, no, arrivo la mattina, preparo tutte le ultime cose che vanno preparate, anche se ci lavoro tanto il giorno prima. Ma ci lavoriamo tanto con Cristian il giorno prima. Io arrivo la mattina e comincio a dire: ma quando arrivano arriva le 17? Ma quando arriva Daniele Bellasio? Tutti, anche alla RAI sono lì. Bello, che oggi elegante. Va bene, oggi elegante, perché devo fare rappresentanza. Allora, sì, questa è la trasmissione che manda in onda alla radio i video più condivisi in rete. Sai che l'altra volta mi sono dimenticata di dirtelo, qualcuno mi ha scritto un messaggio dicendo: ah, ma dite che mostrate i video alla radio, invece alla radio si ascoltano. Ma lo facciamo apposta, ma scherziamo. Attenzione battuta, no, ma è vero, però presto stiamo lavorando anche a mostrarli alla radio, proprio visivamente, si potrà prima o poi. E poi l'odorama. Dunque, hashtag RadioTube, hashtag ISTV, ormai non sbaglio ormai mai, basta. At Marta Cagnola, at Di Bellasio. Allora, in questa puntata non si parla di Expo, perché non se ne può più. Dai, non se ne può veramente più. Io da so prima che Daniele Bellasio non vuole parlare più di Expo. No. E quindi non mi sembra giusto. Daniele non sa ancora qual è la scaletta, e nel primo blocco del sabato del villaggio parliamo di Expo. Allora io ti racconto subito una cosa, non l'ho capita molto bene, perché c'è una moda a Expo, nel Decumano, no? Dove cammina. Il Decumano è una strada lunga come Corso Buenos Aires, che io faccio 7 volte al giorno, sono distrutto, vabbè che non ho più l'età. Allora, i ragazzi quando si incontrano a gruppi, quelli del liceo diciamo, carini, iniziano a fare applausi, urlano, allora tutti guardano come: ma chi ci sarà lì? Tipo c'è Fiorello. Invece no, è un modo per salutarsi nello struscio del Decumano. Allora io non ho capito se è collegata, sarà collegata qualcosa, io non avrò capito qualcosa di questa moda, di questo evento. Quando l'ho capito in una delle prossime puntate te lo spiego. Però è bellissimo, perché perché quei ragazzi lì che sono tutti social, che noi diciamo sempre però sempre con gli occhi sul telefonino, come sullo se smart, non lo facessimo noi, sì, come se non lo... no, ma noi siamo ragazzi, quei ragazzi lì noi invece lì è diventata una cosa molto fisica, per cui Expo è il primo evento bidimensionale dove la dimensione virtuale del social network è almeno importante quanto quella reale, tornata, cioè, su quella reale, cioè in pratica scoprono di essere tridimensionali, esatto. E lì i mi piace, i like di Facebook diventano fanno, e si salutano festeggiando, ma gente Marsiglia con non lo so, con Corezzo, esiste con Corezzo? Con Corezzo è vicino a casa mia, esiste. Ah, sì, sì. Allora la conosco, vabbè, basta. La conosco. Mi sono infervorato, ti ho raccontato questa cosa, non ti è piaciuta tanto, però no, pensavo sì, scaldasse no, di più i tuoi no, cuori. No, è che io pensavo che comunque cuore, è sempre stato così, cuore, che... Ma cattivo. Non è sempre stato così. No, ma nel senso che prima dei social network la gente si incontrava. Sì, la gente in piazza si incontrava e urlavano. No. Allora, tu dici che il fenomeno è una specie di ola, è una specie di ola tra gruppi mentre si sfiorano. L'ho spiegata anche male, vabbè. Beh, ma è straordinario. Mandiamo vabbè, dei video. È bellissimo. No, ma mandiamo dei video perché tu poi dici che non vuoi parlare di Expo, ma mi segnali le cose di Expo. No, allora ti ho io segnalato questa cosa carina, un minuto a padiglione, sì, di Periscope. Dei Periscope, sì. Poi in questa puntata ne parleremo, ne parleremo di Periscope. Un minuto a padiglione, ma li fanno gli stessi ragazzi? A volte sì, sì. Allora, io partirei così, mostrandovi un po' di musica irlandese. L'arpa? Non lo so, questo è l'Expo Tube irlandese. Salve a tutti, sono Fabrizio dal padiglione irlandese qui a Expo 2015 Milano. Mi vedete un piccolo spettacolino di ballate e jingle irlandesi tradizionali per voi. Mi piace perché fa anche l'annunciatrice, sì, ballate jingle. Eccolo qua, dallo so bello. Molto bello dall'esterno il padiglione irlandese. Al centro poi appunto suonano spesso, ci sono dei video, molto i video, molto radio. Non vuole parlare di Expo, non ce la fa. Non ce la fa. È dall'Irlanda, facciamo rima, andiamo Olanda. Ciao ragazzi, sono Emanuele, ci troviamo qui nel padiglione dell'Olanda per mostrarvi un po' tutte le bellezze di questo posto fantastico. Allora qui, questo è l'unico padiglione aperto dell'esposizione e ci sono un sacco di cose con cui divertirvi, in cui potete, ci sono un sacco di posti in cui potete mangiare specialità. Ma insomma questo è un altro ragazzo che... L'Olanda è una specie di Luna Park, cioè, sai che mettono in rave, un concerto rave alla mattina alle 10? Cioè non voglio parlare... Peraltro di fianco. Ma io guardo Pietro in regia, ha detto che non vuole parlare di Expo, lo fai partire, va da solo. Vabbè. Comunque quello che mi è piaciuto di più di tutti è il video del cluster, del, diciamo come possiamo dirlo, del... Insieme, cluster, sì, cluster per, si dice. Per chiarirlo, so, del cacao, perché sì, questo video... il cioccolato. No, ma sentite qua. Buonasera, benvenuti al cluster cacao e cioccolato, questo è il teatro del cluster, i cui eventi ci sono offerti da Euro Chocolate. Alle mie spalle vedete una statua di cioccolato ancora in corso d'opera che il maestro Salvatore Cicero terminerà entro la serata, e là sul tavolo i nostri abili maître chocolatier che stasera presenteranno delle gustose ricette a base di cacao e cioccolato. Può andare così, dici? Può andare così, dici? Mi è piaciuta tanto. Però poteva andare. Allora, noi adesso facciamo una breve pausa, poi basta con Expo. Però, peccato, il Turkmenistan non era male. Lo twittiamo il Turkmenistan. Niente, prima della breve pausa volevo dirti che ho finito il cioccolato che mi hai portato. Che ti ho portato da Expo. Non... Niente, non dico nient'altro, ho finito bene, il cioccolato. La prossima settimana te lo porto. Dai, allora, brevissima pausa e poi torniamo ancora insieme con Radio Tube. YouTube. Rieccoci insieme con questa puntata di Radio Tube e con un argomento molto serio, caro Daniele. Adesso siamo diventati seri. Dopo 2 anni e mezzo seri. No, vabbè, ma perché è un tema molto interessante, un tema che noi ce l'abbiamo sempre un po' in sottofondo, quanto può essere attendibile la rete, quanto no, il giornalismo. La crisi del giornalismo, il dibattito no. Carta web. Cheat, no, il dibattito no. Carta web. Però è un bello spunto di riflessione. Sì, va bene, facciamolo. Sono tanti anni che lo facciamo. Quante scemenze circolano sui giornali grazie a quello che si legge in rete? Aspetta, non ho capito. E quindi è colpa della rete se finiscono sui giornali o è colpa dei giornali se finiscono sulla rete? Non lo so. Io vorrei parlarne con qualcuno che ha scritto un libro. Sì, che è un genere giornalistico. Che è uscito da pochi giorni. Il titolo, per chi frequenta la rete, è già noto. Già riporta a lui. Il titolo è Notizie che non lo erano, edito da Rizzoli, e io do subito l'augurio di buona serata a Luca Sofri. Buonasera Luca. Buonasera a voi. Allora, Luca, Direttore del Post. Peraltro. Autore di queste Notizie che non lo erano, che ti accompagnano da un po'. Ma io vorrei introdurti però con una frase tratta da una serie televisiva, eccola qua. Anchors having an opinion isn't a new phenomenon. Murrow had one and that was the end of McCarthy. Cronkite had one and that was the end of Vietnam. I'm not those guys. I'm betting all my money on you're wrong. You know what, kiddo? In the old days of about 10 minutes ago, we did the news well. You know how? We just decided to. Sai una cosa? Ai vecchi tempi, tipo 10 minuti fa, facevamo le news bene. Sai come facevamo? Lo avevamo deciso. Charlie Skinner, The Newsroom. Sai una cosa tu, Marta? Che Luca, sì, in una delle prime feste del Post, sì, al Festival di Perugia, scelse, sì, proprio una citazione di The Newsroom per raccontare perché fece il Post. E beh, e questa è quella che proprio introduce, sì, Notizie che non lo erano, a pagina, non lo so perché in elettronico, 13. Pagina 0. C'è subito questa. Luca, intanto ti chiedo perché questa citazione. Ma è una fissa di cui ormai vengo anche sistematicamente preso in giro, soprattutto nella mia redazione. The Newsroom, la serie, è per me, guarda, vi confesserò una cosa, malgrado sia un uomo ormai sui 50, che mi fa suonare ingenuo e infantile, ma io mi commuovo ancora quando sento Charlie Skinner che dice quelle cose e vedo quelle scene. Allora, per quelli che fanno, diciamo, informazione, poi giornalismo ormai è una formulazione, è una professione che racchiude talmente tante cose diverse, per cui io non so nemmeno a che cosa corrisponde, ma per quelli che cercano di informare sulle cose del mondo, i grandi modelli, quelli che una volta quando eravamo ragazzi erano i manifesti da incorniciare in cameretta o cose di quel genere, sono diventati pochissimi. Se guardate ancora le cose che si citano come grandi trionfi dell'informazione, sono il Watergate, sono cose vecchissime, no? Perché sì, è tutto cambiato, è normale, uno non vuole appunto. Però che sia arrivata a un certo punto una serie televisiva che, con tutta la sua parte di finzione, perché naturalmente è una serie televisiva, ma anche raccontando moltissimo dell'attualità e con straordinaria fedeltà e efficienza, abbia ricominciato a dire attraverso i suoi personaggi che bisogna fare le cose bene, che bisogna controllare le informazioni con straordinaria prudenza, che il lavoro che si sta facendo è un lavoro importantissimo, delicato e di grandissima responsabilità. Secondo me, e lo dico sapendo che ho amici, primo il mio ex collega di radio Matteo Bordone, che mi prendono in giro per appunto la mia ingenuità su queste cose, secondo me appunto avere modelli anche inventati, come a un certo punto scrive in questo libro, è molto prezioso. Ecco, allora, Notizie che non lo erano è un genere giornalistico inventato dal Post praticamente, anche tipo Lo Spiegone, che è diventato famosissimo. Originato però, direi, sì, da Verdelli, da uno stimolo. Sì, Notizie che non lo erano, diciamo, nacque sulla Gazzetta dello Sport nei primi anni in cui la Gazzetta dello Sport, grazie all'allora direttore Verdelli, aveva introdotto quelle pagine non sportive che ora tutti i lettori della Gazzetta dello Sport conoscono bene e apprezzano, per una serie di così casi. Il direttore mi chiese se avrei messo in fila, come avevo già fatto sul mio blog, un po' di notizie che si erano rivelate false in quei giorni. Quell'articolo funzionò molto e lui mi propose di farlo ogni settimana. Io da prima, come racconto sempre, dissi: ogni settimana non sarà facile trovare tante notizie che si rivelano false. E invece poteva diventare, sì, una rubrica quotidiana a un certo punto. Andiamo direttamente al colpevole, Luca. Allora, si dice, no? Le bufale nascono perché c'è la rete. Invece tu nel libro tendi a dire: no, semmai la rete controlla le bufale che i giornali pubblicano. Come funziona? Tutti gli estremi e tutti i colpevoli unici sono sempre delle balle, come tu sai bene, no? Sì. Ci sono concorsi di colpe, concorsi di responsabilità, le cose sono sempre molto complicate. quello che secondo me è successo è che non è cresciuta la quota di notizie false con internet, è cresciuta in generale la quota di notizie e di informazioni che noi riceviamo, e lo sappiamo bene. E dentro questa crescita generale, appunto, in proporzione è cresciuta parimenti quella di notizie false, e oggi ce ne accorgiamo molto di più. Io credo che i giornali e i giornalisti pubblicassero decenni fa altrettante cose completamente inventate, raccontate mentre si stava in una camera d'albergo, inviati senza essere andati a controllare niente, o per sentito dire, o per comunicati stampa, così come racconto nel libro con molte storie e meccanismi. Però allora nessuno poteva andare su internet e controllare che un'altra testata avesse scritto una cosa diversa, che un documento dicesse una cosa diversa, che un articolo fosse stato copiato male da un altro articolo magari americano. Oggi la rete appunto permette di fare questi controlli e rivela queste cose. Contemporaneamente, siccome oggi molti giornali e giornalisti a proprio alibi dicono è colpa di internet che diffonde le bufale, a parte che internet, come sapete, sono i giornali e sono le testate giornalistiche, no? La maggior parte delle informazioni che noi riceviamo da internet poi vengono dai grandi siti web delle grandi testate tradizionali, e quindi anche dentro internet la maggior parte del potere di diffusione dell'informazione è ancora appunto nelle mani delle grandi gruppi editoriali, delle grandi testate giornalistiche. E poi penso, come diceva sempre l'uomo ragno, che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e quindi nelle responsabilità comuni di internet e dei giornali, quelli che devono stare più attenti sono quelli che hanno più poteri e quindi hanno più ascolto, più lettori, e i giornali piccoli e grandi così a salire. C'è un conflitto che tu evidenzi molto bene in Notizie che non lo erano, il fatto che se una notizia non è immediatamente verificabile o non immediatamente verificata, comunque c'è una pressione perché questa notizia venga messa comunque in rete o online, perché altrimenti se si rivelasse vera cosa succederebbe? Che i clienti dell'agenzia, i lettori, penserebbero che la testata non è stata abbastanza tempestiva, quindi bisogna essere veloci anche a costo di dire una scemenza. Certo, guarda, come ha spiegato molto bene, poi non vorrei adesso che diciamo questa esposizione del mio libro passasse per un ponderoso e noioso saggio, è pieno di storielle, esempi e cose anche che fanno di divertenti sui meccanismi per cui escono le notizie false. Però come ha spiegato bene uno studioso canadese che si chiama Craig Silver, che ha scritto la prefazione del mio libro, tutti gli incentivi sono a favore di pubblicare rapidamente delle cose non controllate, perché se tu pubblichi subito una cosa, arrivi prima degli altri, viene condivisa di più sui social network, tu diventi la fonte di quella cosa, fai un sacco di traffico, guadagni di pubblicità, eccetera, eccetera. In più, se la pubblichi subito, anche l'eventualità che sia falsa, tu la superi, perché magari se la controlli, nel giro di 5 minuti scopri che è falsa e ti perdi tutto quel traffico, tutti quei lettori e tutte quelle, appunto, poi soldi, alla fine stiamo parlando di soldi in un periodo in cui i giornali sono molto in crisi, e quindi sarebbe facile dire fate il vostro lavoro bene e fatelo di qualità in un momento di vacche grasse. In un momento di vacche magre si va a prendere il traffico un po' in tutti i modi, anche pubblicando un sacco di cose molto sbrigativamente. Allora Luca, parlavi di esempi, facciamone uno. Qual è la notizia che non lo era, che ti ha stupito di più, oppure che secondo te è più significativa dei problemi che finora hai raccontato? Guarda, ci sono diversi fronti, se dovessi dire diciamo quello più serio, quello più grave, quello che più fortemente dimostra quanto possano essere pericolose le responsabilità nel pubblicare delle notizie esattamente, diciamo trascuratamente, con allarmismo e sensazionalismo, direi il caso dei vaccini contro l'influenza dell'anno scorso. Giusto. Chiunque leggeva i quotidiani italiani, praticamente tutti i quotidiani italiani raccontavano dalle prime pagine che a vaccinarsi contro l'influenza si moriva, no? Le morti sospette, eccetera, ma insomma il messaggio che passava era quello lì. Salvo il settimo giorno, dopo che erano stati fatti i controlli del caso, appunto smentire e spiegare che quelle morti non c'entravano niente con i vaccini, ma intanto un sacco di gente non si è vaccinata contro l'influenza, e non vaccinandosi contro l'influenza alcune persone, quelle più deboli, quelle più anziane, quelle più a rischio, muoiono anche. Insomma, questo se devo fare un esempio serio e grave. Poi ci sono diciamo molti esempi piccoli e divertenti. Uno che mi diverte molto e che è molto piccolo e che nasce sostanzialmente soltanto da un refuso è quello di quando alla morte di un famoso ciclista di diversi decenni fa che si chiamava Vito Taccone, tutti i giornali titolarono che Vito Taccone aveva battuto, era famoso perché aveva battuto il famosissimo Mauro Di Sormano. soltanto io non me ne sarei mai accorto naturalmente, e leggendo avrei pensato, ah vabbè, questo era uno che aveva battuto il fortissimo Mauro Di Sormano. Invece qualche esperto di ciclismo mi spiegò che non era mai esistito nessun Mauro Di Sormano, ma lui aveva semplicemente superato una salita famosa come il Muro Di Sormano, e per un refuso partito da qualche parte era nato questa figura leggendaria di Mauro, il fortissimo Mauro Di Sormano, dicevano i tizi. E su questo Mauro Di Sormano ci fermiamo solo per un attimo e poi torniamo ancora con Luca Sofri. YouTube. Buonasera, sono Will McAvoy di Newsnight e avete appena visto Richard Clark, ex capo dell'antiterrorismo con George W. Bush, che testimonia davanti al Congresso il 24 marzo 2004. Un grosso evento per gli americani. Lo è stato anche per me. Gli adulti devono assumersi la colpa dei propri fallimenti. Quindi stasera, in questo notiziario, mi affianco al signor Clark nel chiedere scusa al popolo americano per il nostro fallimento, il fallimento di questo programma durante il periodo in cui l'ho diretto io, per non aver informato e istruito a dovere l'elettorato americano. Sia ben chiaro, non mi sto scusando a nome di tutti i giornalisti televisivi e non tutti i giornalisti televisivi devono delle scuse. Parlo per me stesso. Sono stato complice di una lenta, ripetuta, inconfessata e imperdonabile catena di fallimenti che ci ha portato al punto in cui siamo. Sono l'esponente di un'industria che ha falsato i risultati elettorali, alimentato la paura del terrorismo, fomentato le controversie e ignorato i cambiamenti epocali in atto nel nostro paese. Dal collasso del sistema finanziario alla verità sulla nostra forza reale, ai pericoli da affrontare. Sono l'esponente di un'industria che ha deviato la vostra attenzione con la destrezza di Harry Houdini, mandando in guerra senza i dovuti scrupoli centinaia di migliaia di uomini e donne tra i più giovani e coraggiosi. Il motivo del fallimento non è un mistero. Eravamo schiavi degli ascolti. Ancora con RadioTube, sì, con Daniele Bellasio, sì, accanto a me, Marta Cagnola, Daniele Bellasio e ancora Luca Sofri, autore di Notizie che non lo erano, adesso per me un momento coming out. Cioè? Perché una è capitata anche a me, sono Hai stata bacchettata su Twitter da Luca Sofri. No, gravissimo. No, ma in realtà involontariamente. Questo momento per vendicare. No, no, no, è un momento coming out involontariamente. Che hai fatto? No, allora, quando morì lo storico Le Goff, io non sapendone nulla, intervistai un notissimo medievista italiano che mi aveva spiegato di essere stato collaboratore di Le Goff, sì, e oltre che amico, e lui era il mio fact checking, cioè era e lui invece, la mia, e invece cadde nella bufala di un libro che Le Goff avrebbe scritto con l'autore del Trono di Spade, era una storia del genere che non era vero, che pare fosse stato aggiunto da qualche buon tempone su Wikipedia, ma io, non conoscendo nessuno di questi, avevo interpellato l'esperto e quindi avevo diffuso involontariamente questa bufala. E lui di commentò? Wikipedia. Ma certo, me lo spiegò l'esperto. Luca, andò così. Sì, ma difatti questo è un corollario tipico delle notizie che non lo erano, non soltanto la verità della notizia, ma che a quel punto il giornale coinvolge l'esperto a commentare la notizia falsa, no? Quando nelle prime ore di dopo l'attentato di Oslo, quello di Breivik, alcuni giornali precipitosamente dissero che era un attentato di matrice islamista, eccetera, eccetera, alcuni giornali non solo diedero questa notizia falsa e sbagliata, che non aveva in quel momento nessun fondamento, ma interpellarono gli esperti, quelli attenti al terrorismo islamista, che dissero, di nuovo adesso arriva in Europa, alle porte di casa nostra, eccetera, eccetera. Quindi ci dovrebbe un po' di prudenza, non solo nelle notizie false, ma anche addirittura nel costruirci poi delle analisi sopra. Devo dirti che a mia discolpa la notizia che avevo dato io era vera, che il povero Le Goff era morto. Era morto, sì, la notizia principale. A differenza di Fidel Castro. Sì, a differenza di Fidel Castro. Di attori televisivi, sì, cinematografici. Sì, sì, devo dire che il mio esperto cadde nella trappola e io caddi nella trappola con l'esperto. Ma e possiamo usare di Luca Sofri anche il fatto, adesso faccio arrabbiare, che lui è un guru della rete, si può dire, no? Già, no. Allora, lui ci chiarisce che non dobbiamo dire il web, i social, il popolo del web, che noi cerchiamo diciamo di non dire non mai. Cioè, si infatti, può dire guru. Sei guru della rete. Vabbè, comunque. Allora, e poi faccio un'altra cosa. È un po' demodé come espressione. Lo so. Se mai io fossi stato e non lo sono mai stato. Beh, lo so, posso dirti che però Daniele Bellasio qualche minuto fa mi ha annunciato che ha scoperto l'esistenza della musica in streaming. E peraltro perché me l'ha detto qualcuno, perché se no. Ah, non si può dire Spotify? Si può dire, sì. No, e allora poi faccio arrabbiare Luca ancora di più perché gli faccio delle domande secche di quelle manichee che lui non ama. Okay. Dunque, questa settimana alcuni grandissimi giornali hanno fatto un accordo, l'avevano fatto un po' di tempo fa, hanno iniziato ad implementare un accordo con Facebook per cui i loro articoli finiscono come post di Facebook e vengono letti molto più velocemente dal navigatore di Facebook, ma diventano in sostanza testo di Facebook. È bene o male? Manicheo per manicheo ti direi male. Poi, come dicevo prima, in tempi di vacche magre uno è indulgente rispetto a condannare alle scelte che cercano di andare a rimediare degli spiccioli in giro, come le scelte che fanno i grandi giornali. Detto questo, mi sembra un rischiosissimo consegnarsi a Facebook appunto per un piatto di lenticchie. E Periscope? Una moda passeggera o qualcosa di più? Non sono preparatissimo, ho fatto il mio primo test di Periscope qualche giorno fa agli internazionali di tennis, tra l'altro credo anche di aver violato 50-100 leggi. No, quello è un problema, quello delle norme è un problema. Sì, no, vabbè, lì c'è un mondo interessantissimo, come in tutti i casi in cui arriva una novità tecnologica e sconvolge completamente il modo con cui regolavamo le cose fino ad adesso. Devo dire ancora una cosa su Notizie che non lo erano, il tuo libro di cui stiamo parlando. A me ha colpito moltissimo la conclusione, perché in un mondo in cui si insiste sul in Italia manca il pluralismo, tu dici altro che manca il pluralismo, manca la serietà di fatto, non è un problema di pluralismo ma di verifica e di serietà. Sì, io penso, con rispetto poi vero, il lavoro di tutti, ma penso che il lavoro possa essere fatto bene o male, e penso che con questa storia del pluralismo, della difesa del pluralismo, c'è in giro tutto un cliché, un luogo comune sul fatto che qualunque tipo di informazione, no, va difesa, no? Questo vecchio luogo comune per cui ogni giornale è un buon giornale, tutti i giornali vanno difesi, eccetera, perché tutti dovrebbero in qualche modo esprimere la propria opinione, ma i giornali scrivono anche un sacco di cose totalmente false, sbagliate, malfatte, gravi nei confronti delle persone coinvolte. Quelle cose lì io non penso che vadano difese, e quindi credo che in tutti questi anni abbiamo usato l'alibi della difesa del pluralismo per nasconderci che il problema non è il pluralismo, perché in Italia veramente non mi sembra che siano mancate informazioni e informazioni politicamente molto plurali in questi anni, ma sia mancata una qualità, accuratezza e attenzione a quelle informazioni. Se c'è una cosa che oggi accomuna tantissima informazione di sinistra e di destra, diciamo così, per essere sbrigativi, è proprio appunto la scarsa sicurezza e la sbrigatività e anche l'allarmismo, il sensazionalismo dei titoli, tutte quelle cose lì per cui molti quotidiani di destra e di sinistra ormai si somigliano. E allora Luca, qua abbiamo parlato tanto, scusa se ti ho interrotto, di web e di giornali, però siamo alla radio e noi di solito parliamo di televisione. Sì. E allora la domanda è molto banale, però ti manca di più la radio o la televisione? No, la televisione è stata veramente un accidente passeggero di cui è responsabile un uomo che tu conosci bene. Sì, grosso. Nella mia cosiddetta carriera è stato veramente un accidente passeggero. La radio invece? La radio è stato un accidente decisamente più stabile, che in realtà diciamo veniva dalla televisione, da quell'occasione della televisione, anche quello più stabile, e in cui mi sono trovato molto più a mio agio e con molto più soddisfazione e divertimento. E se oggi diciamo non fossi rapito 72 ore su 24 con grande soddisfazione e divertimento dal post, probabilmente mi mancherebbe di più. Mi sono trovato una specie di alibi o diamante per fuggire a quella relazione lì. Vabbè, quando vuoi venire da noi, noi certo, ti aspettiamo un sempre. Un piatto di minestra per te. Ma sì, sì, a Radio Tube c'è sempre un piatto di minestra. Noi ti vogliamo salutare con quello che hai combinato da Floris questa settimana. Luca Soffri su Matteo Salvini. Interrompo Salvini, poi si offende, mi dà dell'agitato. È la seconda volta che vengo di seguito a Ballarò con Matteo Salvini, e tutte le volte a un certo punto lui inserisce l'espressione buttare via la chiave. Cioè, allora, buttare via la chiave è un po' la soluzione. Al di là del suo tragico errore, cosa voleva dire? No, quello che volevo dire è, intanto sarei curioso di sapere da dove viene questo dato dei 3 miliardi di investimenti persi con l'Unione Sovietica, questo anche non è male, l'Unione Sovietica, devo ammettere, con la Russia rispetto alle sanzioni della Russia, perché appunto da capo io sono attento alle informazioni, ai dati, a queste cose che facciamo da giornalisti, e questi 3 miliardi non so da dove vengono. Guardi, glieli trovo subito. Luca, sei stato bravissimo però, perché ti sei anche preso in giro da solo. Marta ha paura che ti offendi. No, sei stato fantastico. Mi fa ridere, mi ha fatto ridere, c'era una certa sopravvalutazione in giro, perché mi fa ridere degli articoli sul fatto che io avessi fatto quelli lì, e addirittura la gas che fa storia, ho letto su degli articoli. Ma sì, qualcuno di nuovo ha anche trovato delle motivazioni che ideologiche che tu hai detto, certo. Uno è perché sei un nostalgico. Esattamente, vecchi comunisti. Luca, che meraviglia. Allora, io ricordo notizie che non lo erano, con tutte le gaffe fatte, una anche da me, in questi anni ti aspettavi di trovarne poche, ne hai trovate tantissime, ce ne sono e molte sono molto divertenti. Grazie per essere stato con noi e buona serata Luca Sofri, a presto. Ciao. Molte grazie a voi, ciao, grazie a tutti. Allora, hai citato Periscope, tra poco parliamo di Periscope, perché ne ha parlato uno dei grandi protagonisti di questa, di questa follia, sì, Fiorello, ma a colazione, a me appaiono notifiche, colazione, sì, lui e Giulio Base fanno il palinsesto di Periscope, perché Fiorello ne ha parlato in un momento molto interessante. Qualche giorno fa io sono stata in un posto molto bello, vabbè, ve ne parlo tra poco. Ha parlato di Periscope e io cosa ho fatto? L'ho ripreso con Periscope e quindi ho l'audio perché l'ho ripreso. L'hai con scaricato Periscope sul telefonino, che adesso si può, va bene. Sì, però sì. Intanto una piccola pausa. Una piccola pausa al traffico del villaggio, sì. E ci ritroviamo tra pochissimo. YouTube. Bella bella, mi è piaciuta questa riflessione con Luca Sofri, sono anche molto divertita a leggere sono questo sorpreso libro. Sorpreso che anche lui come me su Periscope, ma no, perché tu sei ancora no, sul io ma... sono molto attratto, troppo attratto, come tutte le cose che mi attraggono moltissimo mi fanno un po' paura. E infatti le prime cose che abbiamo fatto sentire in questa puntata, quelle su Expo, erano tutte su Periscope, però grande strumento, grande potenzialità, vediamo. Lo abbiamo detto, chi l'ha usato per primo, anzi prima del lancio direi, che secondo me lui ce l'ha avuto in mano per giocarci qualche giorno prima. Egli detto così, dai. È stato Fiorello. Fiorello, sì. Io la scorsa settimana, ormai io racconto sempre, il sabato pomeriggio racconto sempre cosa dove faccio nel weekend. Dove sei stata? Dalle mie parti, sì, nelle Langhe. Sì, sono stata a Bellasioland. No, nelle Langhe. Cioccololand sarebbe. Comunque va bene. Però non proprio Bellasioland, di fianco Dogliani. Sì, beh, ci sono 4 chilometri. Esatto. Da Dogliani, Festival della Televisione. Sì. Un sacco di incontri interessanti. Anche il nostro direttore, Roberto Napoletano. Sì. Lui è stato la domenica mattina. La domenica pomeriggio c'era Fiorello. E devo dire che per Fiorello ovviamente il delirio. Una calca impressionante. Però io non lo sapevo che ci fosse questa calca impressionante, perché ero dentro. Cioè, dove dentro? Io ero in questo atto, lo aspettavo ovviamente in questo atto in sostruttura. Lui cosa ha fatto? Il periscope dell'arrivo. Quindi io ero, ma pensa alla follia. Sei finita dentro il suo periscope, hai chiesto i no, diritti. Grazie no. al cielo no. Io ero dentro la tenso struttura affollata di persone, perché immaginate il personaggio ovviamente attrae moltissima folla. Lui stava arrivando e quindi vedevo quello che stava succedendo fuori, perché da lui periscope, sì, con in diretta trasmetteva il suo arrivo. Vabbè, una follia, cioè, manco Kubrick, una roba da... Quando lui è entrato, tutti con smartphone e tablet hanno alzato lo sguardo. Sì, e tutti a riprenderlo con Periscope, ovviamente, e anch'io. E quindi era tutta una diretta perso. Incrociata. Era tutto, cioè, come quei quadri dove c'è lo specchio. Sì, dove era una mise en abîme. E credo che tu abbia fatto la tesi su questo. Non la smetterai mai. Fiorello, che cosa ha detto? Ha spiegato qual è la magia di Periscope. Perché lui ha detto: va bene, sì, si potevano mettere i video online, YouTube, ma Periscope adesso è diverso. L'audio è quello che è, perché appunto il video è stato ripreso da me. Periscope a Dogliani domenica scorsa, eccolo. Credo che sia un ottimo mezzo di comunicazione, insomma ragazzi, una diretta è pazzesca, cioè fare in questo momento, se io adesso andassi su Periscope saremmo in diretta, almeno 2-3 mila persone potrebbero vederci in questo stesso momento. Certo, va usato con parsimonia, perché se uno si mette ogni 10 minuti a farsi dirette magari che ti leghi le pellicine dei piedi, allora diventa brutto. Però se uno, ad esempio ultimamente sono in tour e faccio vedere monumenti, cose che non conosco, che magari molta gente non conosce. Facendo la radio, io l'ultima radio che ho fatta l'ho fatta con le nuove audio dello smartphone, la televisione la facciamo con il cellulare, giustamente si perde un po' di vista. Allora, lui l'ha detto, bisogna usarlo con parsimonia. Sì, però l'ha detto, non lo ma... fa tanto. No, cioè, voglio dire, beh, però per fortuna dei suoi fans, devo dire che no. Lui, esatto, lui alla fine riesce a creare uno show da tutto. Ormai la radio io la facevo con la smartphone, la TV si fa con lo smartphone e quindi perdiamo un po' il controllo poi, voglio della dire, situazione. I talenti, sì, perdiamo il controllo, ma i talenti poi alla fine vengono fuori lo stesso, perché non è che se mi metto io a fare Periscope ho lo stesso, la stessa audience di Fiorello, no? Quindi voi, come no, puoi. Esatto, però diciamo non è che c'erano i mi piace nemmeno di mia mamma, perché non c'è ancora arrivato, non c'è, non neanche i cuoricini della mamma, esatto. No, salutiamo sempre mamma, sì. Bellasio, allora, una bella signora francese che si chiama Catherine Deneuve, però, je suis Catherine Deneuve, sì, famosa per quella frase qua. In Italia molto, in Italia molto. Festival di Cannes, film di apertura, lei è arrivata un filo nervosetta, no? Sì, lei era un po' attesa e ha commentato questa frase secondo cui il divismo, lei avrebbe detto, è stato rovinato dai social network. Rovinato. È stato rovinato, non è detto dai che social non ci network. Sia più, ma... Ecco cosa ha detto in conferenza stampa a Cannes, Catherine Deneuve. Oui. Avec les réseaux sociaux et avec la façon dont les choses sont reprises, extraites des journaux de sa phrase. Con i social network e con il modo che hanno di riprendere le frasi tratte dai giornali, le parole acquistano un'importanza inimmaginabile e spesso un senso molto negativo. Il sistema mediatico è quello che al giorno d'oggi ci impedisce di sognare e gli attori sono lì solo per farci sognare. Adesso è la vita privata delle star l'aspetto predominante. Non dico che si dovrebbero costruire dei segreti, ma bisognerebbe tenersi qualcosa per sé e non mostrare tutto della propria vita. Certo è che è difficile in questa situazione conservare un po' di mistero. Allora, è difficile conservare il segreto, dice non fabbricarlo il segreto, però è un po' difficile conservarlo, anche perché questi attori, e in questo ha ragione, ormai hanno fatto sì che la loro vita privata abbia preso il sopravvento sulla capacità di far sognare. Sì, perché è un problema di distanze che si abbattono, oppure diventano diverse. Ci sono molti lati positivi nell'abbattere le distanze, c'è qualche lato negativo. Quindi chiaramente sì. Il divo è più della porta accanto sempre. Però qui non era tanto arrabbiata Catherine, ma invece si è arrabbiata un po' dopo, come la nostra Ornellona Vanoni. Povera Ornella, ti ricordi quando aveva detto che Napoli non era bella, che poi non aveva detto che Napoli non era bella, era stata un po' fraintesa. Catherine invece aveva detto qualcosa di negativo su una città del nord della Francia che evidentemente era un po' piovosa quando lei è andata a girare, tipo? Allora le hanno chiesto com'è Dunkerque, Dunkerque è un po' grigia, avrà detto, un po' piovosa. Non si può più dire niente. Pare che Napoli è molto più bella. Quindi adesso qualcuno di Dunkerque ci telefona e dice come è più bella. Fate team Dunkerque. Sarò stato denunciato dall'associazione. Ecco, allora senti come ha risposto un po' arrabbiatuccia Catherine Deneuve. Ecco, mi sembra un esempio chiarissimo di quello che può succedere quando si prende una frase, la si taglia, la si modifica, la si diffonde. Ecco l'importanza che può prendere. Ho diritto di esprimere un'opinione su Dunkerque, una città in cui ho girato alla fine dell'estate. C'era un tempo pauroso, un'atmosfera molto triste e aveva comunque un certo fascino malinconico. Certo che il fatto di trovare in una conferenza stampa, in un festival internazionale, e dover commentare una frase diffusa dai social network, doversi giustificare, è l'esempio del punto a cui siamo arrivati. Di come si ingigantiscono cose minuscole, e in futuro sarò ancora più diffidente. Je me méfierai beaucoup maintenant, encore plus. Adesso mi fiderò ancora meno. No, questo fatto che l'amplificazione delle dimensioni, sì, è vero, perché da una parte si abbattono, si riducono le distanze sui social network, ma dall'altra aumentano le onde a dismisura da una cosa che forse sarebbe piccola. Sì. Sai, quindi... che questa puntata è proprio volata. Uff, no, già che finita, tristezza. Già finita. Sì, è già finita. Anche ma questo, no, sabato del villaggio è già finito. Cosa fai che questo weekend? Così sappiamo, no, il palinsesto, no, della prossima, basta, settimana. Basta, perché Catherine Deneuve ha detto che bisogna tenere un po' di mistero sulla vita personale, perché sennò il pubblico non sogna. Sì. Io come faccio a diventare una diva se racconto tutto? Basta, non raccontiamo più niente. Non raccontiamo più niente, non mostriamo, come ha detto Fiorello, che mi tolgo le pellicine dai viti. Dai che viti. Peraltro per certi versi si può dire. Allora, salutiamo. Salutiamo. Ringraziamo Pietro La Corte in regia. A sabato Alla prossimo. Grande, Pietro. Daniele, al prossimo, sì, sabato. Ciao.